Mix 24 di Giovanni Minoli. E lei la chiama una cosa normale che ci sia un mandato e che ci sia un tradimento di quel mandato? Se la regola voluta dai 5 Stelle, multa da 150.000 euro per chi cambia gruppo, fosse adottata da tutti, avremmo una bella fonte di introiti per le esangui casse dei partiti. Se io fossi un parlamentare che fa il salto della quaglia, cioè che si fa comprare o compra a seconda dei punti di vista e va dall'altro schieramento, questo secondo me è inaccettabile. Anzi, io penso che queste persone avrebbero il diritto di cambiare idea, ma dovrebbero anche cambiare mestiere. Quindi chi fa politica non può fare più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori. Abbiamo un presidente non soltanto abusivo e non eletto, ma che sta in piedi con il suo governo per 50 senatori che hanno tradito il mandato elettorale che hanno avuto dell'elettorato di centrodestra, e quindi un governo che è addirittura contro la sovranità popolare. Perché non si sta in Parlamento con i voti presi dal PD per andare contro il PD. Vale per voi, vale per quelli di loro che vanno via, è l'ora di finirla con chi viene eletto con qualcuno e poi passa via. I numeri dicono che quello attuale è più di altri il Parlamento dei Volta Gabbana. Se nella scorsa legislatura i cambi di gruppo erano poco più di 4 al mese, nell'attuale ogni 30 giorni almeno 10 parlamentari cambiano casacca. Insomma, dal 2013 a oggi sono 249 parlamentari che hanno cambiato casacca, alcuni dei quali capaci di cambiarla più volte. Così arriviamo a un numero record di 340 cambi, un record assoluto. Ecco, la domanda che ci facciamo oggi è questa: qual è il vincolo dell'eletto? Cioè, a chi deve rendere conto? Agli elettori, al partito, alla coscienza? A chi? Riccardo Villari, lei è il recordman italiano del cambio di casacca. Ha cambiato 11 partiti in 22 anni. Qual è quello che le è piaciuto di più? Come si dice, sempre il futuro, il prossimo. Quindi non ne ha nostalgia di nessuna per ora? Nessuna, assolutamente. Lei ha iniziato nella DC, poi è passata nel PP, poi nel CDU, poi è passato all'Udeur, nella Margherita, poi il PD, Radicali Italiani, Movimento per l'Autonomia in Campania, Coesione Nazionale, PDL, Forza Italia, adesso il gruppo Galli in Senato. Insomma, è passato dalla destra alla sinistra per poi ritornare alla destra, adesso è con Verdini. A proposito, Verdini a destra o a sinistra, secondo lei? Ma Verdini, diciamo, è un centro mobile. Un centro mobile, va bene. Ma non sono passato con Verdini, lo dico, no, anche se adoro Verdini, ma non so con lui. Nella sua lettera di addio a Berlusconi, lei ha scritto: c'è stata la presa d'atto di non rientrare evidentemente nei progetti di Forza Italia, di non essere considerato utile né a livello istituzionale né a livello di partito, sia nazionale che locale. Insomma, non è stato valorizzato abbastanza, questo è il problema, no? Ma è anche questo, cioè quando si ha di sé una buona considerazione si vorrebbe essere anche impegnati in qualcosa. Ma che cosa si aspettava da lui che non è arrivato? Ma niente, di poter dare una mano in alcune, forse dare un partito in emergenza. Avrei voluto, insomma, come dire, cercare di spegnere l'incendio anch'io. Ma tipo? Ma beh, cioè, c'è per esempio un pletorico ufficio di presidenza che saranno una settantina di persone attive o passive, cioè con diritto di voto o meno. Ecco, si poteva stare in quel consultorio e poter dire la propria in qualche occasione. E invece non era neanche lì. Senta, ma che dolore è stato lasciare Berlusconi, se è stato un dolore? No, dolore non esageriamo. Come diceva Carlo Conte a Sanremo, non è un'operazione a cuore aperto, cioè, siamo tranquilli. Senta, ma Verdini, vabbè, non è con Verdini, ma le serve per tornare a casa? Ma no, se per caso si intende il Partito Democratico, io ho la presunzione di non farmici eventualmente portare, ma di andarci. Ah, ecco, ci vuole andare da solo, insomma. Lo voglio dire, eventualmente. Sì, ennesimo giro, insomma, l'ideologia di partito nel quale si è stati eletti non conta più niente, quindi. Ma oggi sono cambiate le categorie, adesso al di là della battuta facile, le ideologie sono un po' cambiate. Oggi, prima c'era, non so, Patto di Varsavia, Patto Atlantico, che era una demarcazione netta tra i partiti. Oggi, dal 2012, i partiti di centrodestra e centrosinistra in Italia governano insieme, non dimentichiamolo, con Monti, Letta e Renzi. E quindi più o meno sono tutti uguali, diciamo, in qualche modo. No, voglio dire che le differenze sono molto sfumate. Io direi che forse la differenza più significativa oggi e tra i nazionalisti e gli europeisti. Mm. E già lì è una bella differenza. E lei si sente nazionalista o europeista? Io sono un europeista. Nazionalista, ad esempio, sono Salvini e la Meloni. Nazionalista è Rifondazione Comunista. Ma è Berlusconi? Ma Berlusconi è un europeista, come Renzi che è un europeista, quindi non è un caso che potevano lavorare insieme, lo hanno fatto per un periodo. Senta, ma agli elettori bisogna rendere conto di dove si sta, oppure per le ragioni che dice adesso non c'è bisogno? No, ma gli elettori nel nostro sistema, assolutamente sì, rispondo così, assolutamente sì, ma gli elettori delegano il parlamentare e quindi in qualche modo il parlamentare deve usare questa delega nella maniera che ritiene più giusta, più secondo utile, più coscienza, per poi ritornare al voto. Secondo coscienza, quindi. La Costituzione dice questo. Io capisco che il problema è politico, per cui quando mi dicono l'opinione pubblica pensa di te che sei un voltagabbana, io alzo le mani. Dico, me la prendo questa critica, la capisco. Non la condivido, ma la capisco, perché nell'accezione comune il voltagabbana è questo. Ma in questo Palermo, in questo Parlamento di nominati, il nominato con chi ce l'ha il vincolo? Con chi lo vota o con chi l'ha messo in lista? Oh, questa è la domanda cruciale. Io il vincolo ho sempre sentito con l'elettore. Altrimenti, direttore, succede che chi ti nomina, poi ti mette pure la multa se te ne vai, come vuole fare Casaleggio e Grillo, a quel punto si diventa non nominati, ma incatenati al nominante. È la fine. Non so come si fa a concepire politicamente una follia del genere. Senta, Clemente Mastella, che rivendica il merito di averla cresciuta politicamente, di lei ha detto: Villari è un alto borghese proveniente da una famiglia facoltosa, quindi appunto ha una coscienza, una concezione alto borghese della politica ed è un po' sfaticato. Vere tutte e due le cose? Sfaticato no, alto borghese non so cosa possa significare. Sfaticato. Prendo tutti come complimenti. È di Mastella. Mastella, lei cosa direbbe? Che è un grande. Mastella non è un conformista. Non è un conformista. Dice in pubblico quello che molti dicono in privato. Quindi potrebbe tornare con Mastella? Però Mastella, diciamo che io non me ne sono mai andato, Mastella è un mio amico. Ah, quindi senta. Ma non saprei dura. Ecco, a Palazzo Madama oggi, cioè al Senato, che in realtà dovrebbe chiudere, il 30% dei senatori ha tradito il partito dal quale è stato candidato. Di questi il 43% si è alleato col Partito Democratico. Insomma, Renzi è proprio una calamita che attira. Ma questa legislatura è nata su questo, è nata sulla convergenza di centrosinistra e centrodestra per far nascere un governo. Non so se è più voltagabbana, ad esempio, Verdini, che ha votato in Forza Italia questo governo per poi continuare ad appoggiarlo, oppure, direttore, la sinistra, Sinistra e Libertà, che ha preso il premio di maggioranza alle elezioni alleata con il PD e il giorno dopo ha lasciato il PD e vota contro il PD. Che era il suo alleato. Attenzione, perché quindi i vari Conferrati, Civati, Fassina, Da Torre, che hanno celebrato la convention della sinistra, sono tutti eletti col PD e sono andati via. Quindi, come li vogliamo chiamare? Quindi sta definizione di voltagabbana è sempre più complicata. No, il voltagabbana, la mia idea, il voltagabbana è colui che cambia schieramento in una logica di opportunismo per avere qualcosa di personale, in una logica mercantile. I colleghi che dicono me ne vado perché prendo la pensione, me ne vado perché voglio essere rieletto e quindi indipendentemente da tutto me ne vado dove mi candidano, quello per esempio è un voltagabbana. Ecco, ma alla fine la definizione di voltagabbana è questa? Per me sì, quando c'è un opportunismo di base. Direttore, per dirla tutta, io sono stato eletto e ho cambiato, sono stato eletto nel 2001, nel 2006, nel 2008 e nel 2013. Io solo una volta ho lasciato il mio partito e ho cambiato schieramento. Ed è capitato nel 2009 che dal PD sono passato in Forza Italia dopo che il PD mi ha cacciato, espulso contro la mia volontà. Quindi questi 11 quindi partiti cambiati in 22 anni in realtà sono nella stessa area. No, sono le chiacchiere dei giornalisti che invece di fare cronaca fanno sceneggiatura. Vorrei dire, come dire, che D'Alema o Veltroni sono passati dal PC al PDS, al DS e al PD. Voglio dire, questi partiti che nominano, nel mio caso, DC, Partito Popolare, CDU, fino al PD, è la logica progressione di partiti che si sciolgono e confluiscono in quello che viene. Senta, ma alla fine non si lasciano, non ci stanno più. Ecco, ma alla fine è un insulto oppure no, voltagabbana, messa come l'ha messa lei? Io penso sempre che in assoluto non esiste l'insulto, bisogna vedere chi è che lo esprime. Io potrei fare per semplificazione anche la definizione di chi non è un voltagabbana. Nel mio caso il ministro Lupi, quando era in Forza Italia, mi propose al presidente della regione per l'autorità portuale di Napoli, per la presidenza. Sì. Dopodiché questa nomina non l'ha mai formalizzata. Quello che era successo è che il ministro Lupi, lasciando Forza Italia, era andato con Renzi in NCD. E quindi è forse diventato voltagabbana. Se seguito, sarei stato un perfetto voltagabbana perché mi avrebbe forse nominato. Per interesse. E io non l'ho chiarissimo. Seguito. Senta, un'ultimissima cosa, ma sulla stepchild adoption, secondo lei ce la farà o no Renzi? Io credo che i voti in Parlamento ci sono, ma forse per non fidarsi dei 5 Stelle, Renzi la stralcerà. Un'ultimissima cosa, i 5 Stelle che mettono la multa di 150.000 euro per capire qualcosa e mettere una regola in questo grande caos, hanno ragione o torto? Ma direttore, ma chi è che mette la multa? Grillo? Grillo che non è mai stato eletto in vita sua, è un condannato che non si può candidare, con quale autorevolezza dice ad un eletto parlamentare o sindaco o fai così o ti caccio? Beh, tantissime reazioni a questa intervista, una per tutte. Simone da Milano dice quello che dicono più o meno tutti: questo signore dimentica che deve rendere conto a noi elettori, quindi se lasci un partito dovresti semplicemente decadere. Questa è un'ipotesi. Mario, tu che ne dici della multa dei 5 Stelle? Ha senso o no? Assolutamente no. No, secondo te no? No, secondo è antidemocratico, è sbagliato, è contro cioè non c'è vincolo di mandato. Vabbè, è un pasticcio istituzionale. Secondo te, Pietrangelo? È una trovata per tenere il ferro caldo. Se non ricordo male, la prima Lega Nord, quella di Umberto Bossi, escogitò un altro sistema, cioè quello di farsi consegnare nel giorno della proclamazione dei parlamentari le lettere di dimissione. Ecco, beh, tanto noi abbiamo con noi, lo ringraziamo, Luigi Di Maio, il vicepresidente della Camera dei 5 buongiorno. Stelle, buongiorno. Ecco, onorevole buongiorno Di Maio, chi ha deciso di voi, dei 5 Stelle, l'ammenda di 150.000 euro a chi decide di andarsi? Chi l'ha deciso intanto? Lo abbiamo deciso come gruppo che sta seguendo le elezioni comunali romane insieme ovviamente a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, in seguito al fatto che, se voi ricordate, a Roma c'è un fenomeno, c'è stato uno scandalo che si chiamava Mafia Capitale, certo, che dovrebbe quantomeno far preoccupare tutti i gruppi politici di questo ecco, paese. Ma a chi viene applicata? A chi viene applicata esattamente? Viene applicata a chi o tradisce il mandato e quindi mentre sta portando avanti il suo mandato passa da un'altra parte, oppure a chi, ancora peggio, si macchia di reati, certo, e quindi in quel caso c'è bisogno semplicemente di riscuotere da parte del movimento una somma di 150.000 euro per danno d'immagine. Quindi diciamo che è una sorta di contratto che bisogna firmare con tanto di penale ovviamente, preventiva. Ovviamente non è un'imposizione, chi si vuole candidare con noi firma questo impegno. Poi, un impegno preventivo, diciamo. Certo che è un impegno preventivo, io le volevo leggere semplicemente, prendo 10 secondi, l'articolo certo. 160 della Costituzione del Portogallo, quindi né della Svizzera né di un paese del terzo mondo, che dice una cosa molto semplice: perdono il mandato da deputati coloro che non frequentano l'assemblea o eccedono il numero di assenze o si iscrivano ad un partito diverso da quello per il quale sono stati presentati alle elezioni. E questa ora, è la Costituzione del Portogallo. È l'articolo 160 della Costituzione del Portogallo. Però l'articolo 60... ma infatti concludo. Quando sono state fatte le riforme costituzionali qui, sia alla Camera che al Senato, abbiamo proposto questi punti all'interno della riforma costituzionale e ovviamente un Parlamento, come diceva lei, che ha il record di voltagabbana, si è guardato bene l'approvarli. Però l'articolo, scusi Di Maio, l'articolo 67 della Costituzione nostra, attualmente vigente, dice che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Allora andate contro la Costituzione sostanzialmente. Beh, noi abbiamo trovato un escamotage, ma non siamo d'accordo con quell'articolo della Costituzione. Però credo che molti cittadini però non c'è. Siano d'accordo. Certo, ma infatti noi abbiamo vincolato questa multa al danno d'immagine. Questo è l'escamotage per riuscire a evitare i cambi di casacca. Ora io non dico che avverranno, però lo abbiamo applicato con successo ai parlamentari europei del Movimento 5 Stelle c'è una multa di 200.000 euro, e al di là che sono persone correttissime, è un'esperienza già portata avanti. Certo, però lei ha il punto è uno solo, sì. Minoli, prego, prego. Certo. Se c'è un Parlamento di cambi di casacca, se c'è qualcuno che si vende, c'è qualcuno che compra. Naturale. In questo Parlamento. E quello che evidentemente, secondo me, va sottolineato è qual è la merce di scambio. Perché se, come lei diceva, Renzi è stato il principale acquirente dei Volta Gabbana, addirittura ha acquisito un intero partito nel suo governo, che è NCD, che è un partito che si fonda sul tradimento del mandato elettorale e che ha ottenuto 3 ministeri. Quando Verdini ha cambiato casacca ha ottenuto le vicepresidenze di commissione, quando Formigoni ha sostenuto il governo Letta ha ottenuto la presidenza della commissione agricoltura, quindi non c'entra niente con la libertà di mandato questa storia qua, ecco. Qui c'è semplicemente opportunismo politico, come ammetteva anche Villari prima. Ecco, ma Villari diceva anche una cosa, con che diritto Grillo, che non è eletto ed è un condannato, può imporre la sua volontà a chi viene eletto dal popolo? Ma a parte che non ha imposto niente, perché come le dicevo bisogna firmare per candidarsi. Vabbè, quindi si è sopra, liberi, sì. Cittadini, ma soprattutto è il fondatore e il garante del Movimento 5 Stelle. Non bisogna essere eletti per forza in Parlamento per fare una regola di una forza politica. Tra l'altro faccio presente che altri leader di forze politiche non stanno in Parlamento in questo momento. È vero. Grillo è il garante di queste regole, ma le ripeto, la nostra è stata una decisione univoca su questo tema, perché a Roma c'è stata mafia capitale e noi non possiamo assolutamente permetterci di questo... non dare ulteriori garanzie ai cittadini romani. Questo l'ha detto. Poi, senta, ma pensate, comunque è una pratica da combattere, ma... con tutte le nostre forze. Ecco, ma pensate di applicare l'ammenda anche al Parlamento in futuro? Beh, adesso non c'è in programma, no, però per io il futuro. Io lo auspico, perché personalmente credo che se i cittadini ti mandano in Parlamento con una forza politica, tu hai tutto il diritto di cambiare idea. È quello che scrivono anche molti. Ma non è che te ne vai al gruppo misto a prenderti, certo, lo stipendio ad aspettare, esatto, che finisca. Te ne vai, semplicemente decadi. Decadi. Ecco. E ti fai rieleggere. Però all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle non sono tutti d'accordo. Senta per esempio cosa mi ha detto ieri la candidata sindaco di Torino, Chiara Appendino, a proposito della multa. Ma la multa è per chi tradisce il movimento, nel senso che per chi non porta avanti il programma e non rispetta ovviamente un impegno etico. Noi in realtà abbiamo un impegno etico, l'avevamo già nel 2011, lo stiamo anche valutando, e comunque riteniamo che sia necessario avere degli strumenti per far sì che chi si candida poi porta avanti ovviamente l'impegno che, ecco, si... Però lei ha detto a Torino noi non lo applichiamo, ma chi l'ha deciso che non l'applicate? Noi abbiamo un'assemblea degli attivisti che si riunisce con questa, ci confrontiamo e in questo momento stiamo appunto valutando un impegno etico diverso da quello che ha applicato Roma. Senta, quindi niente contratto di fedeltà a Torino? Non è un contratto di fedeltà, dovremmo valutare comunque delle forme che garantiscano che un cittadino, o meglio un candidato, poi ovviamente porti avanti quello che si è impegnato a fare, ecco. Quindi il programma. Ecco, Di Maio, è una dissidente l'Appendino? Mi fa piacere che l'abbia conosciuta, sì, Minoli, perché sì, sì. È la nostra candidata sindaco. Infatti, questo dimostra la totale autonomia dei nostri territori, ogni gruppo decide e si dà le regole che preferisce. Crediamo che a Roma ce ne sia bisogno, a Torino il gruppo ha sentito di non averne bisogno. E quindi è il territorio che decide? Sul Movimento 5 Stelle è sempre stato così, che ne dicano poi le varie... No, perché lì a Torino però non decidono, per amor di verità, non decidono attraverso le piattaforme eccetera, ma un gruppo che si riunisce come tutti gli altri partiti, se vogliamo dirla semplicemente. Ma lì Chiara Appendino era una uscente su cui c'è stata l'unanimità del gruppo. Quando poi non c'è l'unanimità su una sola persona, noi ricorriamo a forme di consultazione online, perché questi, i nostri iscritti sono iscritti ad una piattaforma telematica da cui con la loro carta d'identità possono votare per il loro candidato. Vabbè, però insomma diciamo che il metodo lì si è allargato come minimo. Beh, io credo che ci siano metodi differenti a seconda di come sono i territori. È sintomo di crescita del movimento. Appunto, no, è interessante vedere che le regole poi dopo si adattano alla realtà in un modo. Per forza di cose, noi siamo un paese così diverso nei appunto. Diversi comuni e nelle diverse regioni. Quindi. Senta, ma intanto sull'unione civile avete lasciato libertà di coscienza, ma la libertà Guardi, di coscienza. Io non le posso dire niente perché tra mezz'ora abbiamo una conferenza stampa al Senato. Mi dica una cosa prima. Quello che già sapete è che noi abbiamo lasciato libertà di coscienza sulla step Rothschild, esatto, mentre siamo al 100% sulle unioni civili per approvarle. E questo sarà quello che dirà in conferenza stampa? No, perché altrimenti no, le avrei allora... dato uno scoop. Altrimenti le avrei dato uno scoop. Non me lo vuole dare lo scoop, eh? Purtroppo oggi no. No, oggi no. Senta, torniamo ai Voltagabbana. Se qualche eletto in un altro schieramento venisse a bussare alla vostra porta, voi lo accettate? Beh, non è mai successo. No, ma sempre... dato che sì, si stanno cambiando le regole, potrebbe succedere. No, io prima di tutto ci tengo a precisare che le regole si evolvono. Però si evolvono, si evolvono. No, perché per esempio... Non c'è assolutamente nessuna volontà di aprire a persone che vengono da altri partiti. Saremo degli incoerenti. A quel no, ma per esempio... Tutto il diritto di chiamarci incoerenti. Di Maio, per esempio, a Torino sì, nelle regole che sono state messe, oltre a quella per cui non ci possono essere i massoni, eccetera, c'è anche... la regola per cui si può arrivare da altre esperienze politiche e essere accolti e candidarsi. Quindi diciamo un allargamento. Ma questo è un altro concetto. Guardi, Minoli, quindi il Movimento 5 Stelle è aperto a coloro che hanno avuto altre esperienze politiche e vogliono candidarsi con il Movimento 5 Stelle. L'importante è che abbiano fatto al massimo un mandato, perché come lei sa, da noi si rispetta la regola, due mandati e poi torni al tuo lavoro. Sì. Ma qui stiamo parlando di un altro concetto, che tu ti fai eleggere per esempio al Comune di Torino, facciamo questo esempio, sì, e poi durante la consigliatura passi col Movimento 5 Stelle rimanendo in carica. Sì. Questo non va bene. No, e questo non è possibile. Okay. Ti dimetti, torni a casa e poi ti ricandidi. Però a questo giro qui noi nei capoluoghi di provincia e di regione abbiamo chiaramente spiegato che chi si è candidato in passato contro il Movimento 5 Stelle non può candidarsi con il Movimento. Senta, semplicemente perché in questo momento sul carro del vincitore, se così lo possiamo chiamare il nostro, vogliono salire tutti e stanno provando a salire tutti, e noi abbiamo bisogno di regole ferre, certo, per evitare che approfittatori entrino nel Movimento. Senta, un'ultima cosa, l'Appendino mi ha detto, che lei è per la stepchild adoption, cioè che avrebbe votato tutto. Voi lo scoop sta intorno a questa cosa qua? Eh? Non lo so, no, credo. Ah, lo scoop della conferenza stampa. No, io sono per... Ma lei l'avrebbe votata tutta ho completa? Ho già dichiarato che io sono per la stepchild, mentre per le adozioni gay per me ci vuole un referendum nel paese che chieda agli italiani se sono d'accordo per le adozioni gay. Non possiamo prendercela noi questa responsabilità come Parlamento di decidere su un tema così sentito dal popolo italiano. Senta, un'ultimissima cosa, ha sentito la notizia sui droni. I droni americani da combattimento possono partire da Sigonella, dice, per ragioni difensive, ma insomma non siamo proprio a un filo dalla guerra? Sicuramente, e queste decisioni rendono un bersaglio la nostra gente e le nostre comunità, perché che siano droni americani o che siano droni marziani, decollano da territori italiani che potrebbero essere oggetto di ritorsioni e ripercussioni militari. E questo mi spaventa, perché l'obiettivo nostro delle istituzioni italiane è difendere il nostro popolo. Quindi voi siete contro questa possibilità? Guardi, nel 2011 bombardando la Libia abbiamo causato un flusso di migranti senza precedenti. Adesso vogliamo andare a bombardare altri posti del mondo per trovarci... No, sempre la Libia, stiamo parlando sempre della Libia. No, le voglio dire che siano i droni verso la Libia o siano i droni verso la Siria. Il problema è che con le bombe noi abbiamo causato altri problemi. Qui ci vuole cooperazione internazionale e diplomazia. E un piano, noi ce lo abbiamo e l'abbiamo presentato più volte, per rimettere insieme la Libia e riappacificare la Libia. Non è facile. Non è stanno facile, provando. Ma è l'unica grazie. Strada che non è mai stata provata. Vabbè, allora la lascio andare alla sua conferenza stampa per gli scoop e per gli altri giornalisti. Grazie. Arrivederci. Grazie. Mario, secondo un sondaggio, malgrado sia anticostituzionale, un italiano su due è favorevole alla multa proposta dai 5 Stelle. Ecco, ma la Costituzione vacilla, insomma. No, è l'ignoranza che si solidifica. Purtroppo è così. Questo è il punto fondamentale. La tua opinione è questa, sì. Mia opinione. Cioè, è la Costituzione che dice che non c'è il vincolo di mandato. No, ma loro dicono, metà degli italiani dice il contrario, vuol dire che hanno cambiato idea. Vuol dire che hanno cambiato idea magari rispetto alla Costituzione. Votino per farla cambiare. La democrazia funziona così. Mastella diceva, pensare che ci sia una propensione meridionale al tradimento non è sbagliato, Pietrangelo. È un fatto di status sociale. Al sud, dice sempre Mastella, sei chiamato onorevole, mentre al nord se ne fottono. Quando poi decadi, se davvero sei finito, non ti invitano neanche più a prendere un caffè. Ecco, per questo che il 47% dei parlamentari del sud cambiano partito, perché è al sud, al sud soprattutto. Al sud si cambia partito perché al sud ogni campagna elettorale, siano esse amministrative o politiche, viene vissuta come un concorso pubblico per assegnazione di posti, siano quelli di parlamentare, siano quello di sindaci, di assessore, eccetera. Per cui la politica viene vissuta come alternativa alla possibilità di avere un ente erogatore. Ah, quindi siccome, quello è poi, sai, alla fine. Siccome l'unica Fiat a nostra disposizione era il pubblico impiego, la politica era l'ancella di questo pubblico impiego, non è nient'altro che un lavoro come gli altri. Ecco, il trasformismo è nato lì. Claudio Sabelli Fioretti, che è giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, autore del libro Volta Cabana, manuale per galleggiare come un sughero. Ciao. Senti, ciao. Ecco, ma allora Volta Cabana sono tappi di sughero sostanzialmente? Ma certo, ovviamente l'unica definizione che mi riesce a dare normale è quella, cioè bisogna assolutamente stare a galla, e per stare a galla bisogna cambiare. Ecco, ma tra tutti quelli che hai intervistato nel tuo libro, sì, chi ha dato la definizione più fulminante di Volta Cabana? Guarda, questo adesso sinceramente non me lo ricordo. Gli intervistati erano tanti. Tantissimi. Il problema qual è? È che definizione puoi dare del Volta Cabana, oltre che tappo di sugo, che è un po' banale. È chi cambia posizione, non sto dicendo partito, posizione, perché se poi cambia tutto il partito è Volta Cabana al partito, evidentemente. C'è un caso clamoroso di Volta Cabana partito, oltre quello dell'NCD, il Partito Radicale, che ti ricordi, il Partito Radicale, certo, che per definizione era un partito di sinistra, che la Malfa portò nella destra. Ecco, ma i Volta Cabana sono sempre esistiti, proprio dall'inizio, nell'Ottocento, ma sono cambiati nel passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica, o è sempre, diciamo, alla fine parliamo sempre della stessa cosa? Diciamo che adesso è più facile, nel senso che l'ufficialità della fine delle ideologie, che poi chi l'abbia deciso non si è capito, ma insomma comunque, certo, diciamo che la famosa frase che è la storia, l'ha deciso la storia. No, ma sì, vabbè, ma non esiste più la destra e la sinistra, è una puttanata, cioè non è mica vero, la destra esiste e la sinistra esiste, basta fare delle domande a delle persone e poi stabilire se è di destra o di sinistra. Ecco, sì, dimmi. No, dicevo, però ci sono dei casi importanti, diciamo da Scilipoti, Arazia, De Gregorio, e sono loro che in realtà hanno deciso le sorte dei governi. C'è un vizio di fondo quindi nel sistema, perché addirittura decide le sorti del governo, insomma. Beh, decide le sorti di una nazione addirittura. Sì, perché... certo, il governo è la nazione. Poi. Ma la cosa è abbastanza divertente, tu hai citato tre casi favolosi, no? Scilipoti, De Gregorio, Arazia, anche se sono un po' antichi. Divertenti in un certo senso, no? Perché i personaggi poi sono divertenti. Ecco, quando cambiano posizione, diciamo, non partito, che cambiano. Normalmente il Volta Cabana, che chi è? È quello che passa dalla destra alla sinistra, alla sinistra alla destra, ma soprattutto passa dall'opposizione al governo, no? Non è che ci sono rarissimi casi di persone che sono. Sì, ma poi in realtà tutti questi cambi di casacca, poi quando si va di nuovo alle elezioni vengono rivotati, quindi in qualche modo corrisponde anche a un sentimento, perché sennò uno non li voterebbe più e finisce lì. Uno cambia una volta, poi è finita. Il fatto che gli italiani votino è un po' esagerato, secondo me. Ogni tanto vengono ricandidati. Anzi, vengono rinominati, fino adesso sono quasi sempre stati rinominati, no? Ecco, ma il problema che dicevo, che il Volta Cabana cosa dice di sé? Che è responsabile, la parola, ti ricordi? Certo. Responsabile, sono dei salvatori della patria, di fronte a della gente che non pensa al futuro della nazione, meno male che ci siamo noi, meno male che c'è Scilipoti, perché c'è qualcuno che è responsabile del futuro della nostra nazione. Io mi sento molto più tranquillo da quando so che Scilipoti è responsabile. Ecco, no, senti, Sabelli Fioretti, volevo chiederti ancora questo, però un modo per arginare questo sistema, questa pratica del Volta Cabana, i 5 Stelle hanno ipotizzato questa cosa delle multe, secondo te ce n'è un altro, cosa bisognerebbe fare? Non c'è. È nella coscienza delle persone. Assolutamente. Assolutamente. Quella è la coscienza delle persone. La gente dovrebbe stare attenta al voto. Per esempio, io chiedevo, quando ho fatto questa inchiesta su Volta Cabana, cosa succedeva in America. In America mi dicevano: sì, ci sono i Volta Cabana, pochissimi ci sono, ma poi l'anno dopo la votazione successiva non li eletto. Non vengono. Ma secondo te, per chiudere, il voltacabana per eccellenza, chi è? Dovessi dire un nome? Guarda, innanzitutto il voltacabana ha un patrono, che è San Paolo, no? Folgorato sulla via di Damasca, cambia, e questo me lo disse Cossiga, che era anche un amico del voltacabana. Sì, però poi l'ha pagata cara, diciamo, in un certo senso. Vede il voltacabana sportivo, per esempio, no? Cioè, è passato dalla Juventus al Milan, chissà come mai, non si è mai capito esattamente come mai. Secondo me, voltacabana, guarda, voltacabana storici sono stati i pentiti BR, no? Perché il voltacabana si riconosce perché cambia casacca improvvisamente, senza dare spiegazioni, insultando gli ex. Questa è una Ah, ecco, sì. Il voltacabana deve insultare le persone. Per sentirsi tranquillo. Ecco, grazie Sabelli Fioretti. Mario, per te chi è il prototipo del voltacabana? Ma quello che cambia gruppo per convenienza e non per ideale, questo è il punto vero. Il problema è che ci sono anche quelli che lo fanno perché hanno una differenza di opinione. Ecco, ma Gino, per esempio, e vanno tutelati. Appunto, Gino, per esempio, dice è invece valido cambiare bandiera quando il partito che sta cambiando politica, per esempio, ma come ti faccio lui un esempio. Fa il caso ti del faccio figlio un di esempio Renzi. Così che siamo chiari. Si vota per andare in guerra. E c'è una diversità di opinioni tra un gruppo di deputati o senatori e il proprio partito. Ci siamo che quasi. Si fa? Si mette la multa? Tu che dici, Pietrangelo? Ma veramente. Su chi è voltacabana? Ho letto il Corriere della Sera stamattina, a quanto pare Berlusconi. Ah sì, perché? Ha lasciato perché la soda carne. Non mangia più carne. Ha lasciato la soda carne per la lattuga, con tutto quello che ne consegue. Il lattughino. E poi comunque c'è sempre lui, il grande Alberto Sordi, dell'arte di arrangiarsi, un film, pensate, del 1954, per chiudere. Prima di essere siciliano, io sono fascista, va bene? A noi! Così diventai un pezzo grosso fascista. Quel simpaticone di mio cognato, che era un famoso antifascista. Hai visto mai che perdevamo la guerra? Avrebbe aiutato a diventare antifascista anche me. Per me l'unica via di salvezza è quella di iscrivermi al Partito Comunista. Tu comunista. In questo momento, e mi devi credere, ti parlo col cuore in mano. Il comunismo mi sembra veramente una bella cosa, no? No. Mix 24. You look through me, and if you talk, it's not to me, and when I touch you, you don't feel a thing. If I could stay, Pietrangelo, dedicato a chi? È stato, hai presente il botto che fa un angelo quando scende sulla terra? È un rumore più che è andato a planare proprio sullo sferragliare della città alle 3 in punto del mattino. Mi aggiravo, nessuno in giro, eccetto due anime perse, una delle quali esce da una buca dal terreno, inciampa, si ferisce e però si sente viva. Ha telefonato proprio alle 3 in punto del mattino, lesbia, e ha voluto questo brano e lo dedica a Catullo. Super classico, eh? Super classico, super classico. Sì, Beh, tu dove vai? Boh, andiamo. Adesso scopriamo. When I get to war again. Questa è la bellissima voce di Daffy, più bella della mia. Sentiamo. No, perché oggi sei triste. No. C'è una voce bellissima tu. No. Quando canti sei meraviglioso. Sì, non canterò mai. Inutile no, che hai già l'esco. Cominciato qualche volta. No. Sentiamo Daffy in regia. Ma... Warwick Avenue. Allora. Ci occupiamo della Camera dei Deputati, dove oggi arriva, nel disinteresse generale dell'opinione pubblica, ammesso che ne esista ancora una in questo paese, e la legge sul conflitto di interessi. Vedi che sei di cattivo umore? No, vabbè, dai, ho sentito delle robe fuori dal mondo. E, dove? Nel dibattito di stamattina, lasciamo stare. E, arriva alla Camera, dicevo, nel generale disinteresse o quasi, sono 16 articoli, di fatto è una riforma anche dell'antitrust, ti faccio la sintesi, sì. Per impedire ai ricchi di candidarsi alla fine darai la possibilità ai soli ricchi di candidarsi in realtà, è l'effetto paradossale delle tante corbellerie che si stanno facendo in Parlamento nel silenzio più totale, una cosa fuori dal mondo, ma la cosa più divertente è che la Camera che doveva essere abolita, cioè il Senato, il Senato, vi ricordate il grande dibattito del paese? Basta Senato! Sì. Alla fine l'hanno ridotto a una cosa, da 100 membri con un'elezione di secondo livello, e questa Camera di per sé inutile, così com'è a questo punto, è anche un po' squalificata, certo. Aggiungo a questo punto, elegge due membri dell'antitrust, cioè quelli che devono vigilare sul conflitto di interessi, anche dei consiglieri regionali. Voi immaginate che cosa stanno andando ad approvare. Tanti saluti, Italia. Beh, sì, fa impressione questa cosa, fa veramente impressione. Delle porcherie. Pietrangelo Salamino. Salamino! Oh, 400 ottimati in forma di registi, canzonettisti, sartine, fanno comitiva in disegno del disegno, in difesa del disegno del disegno, come si chiama, il disegno di legge Cirinna. Queste cose complicate, comunque quella storia che disciplina i vincoli omosessuali, e fanno il ciapi ciapi che piace alla gente che piace. Al seguito di Daria Bignardi, e lei sì, la voce la riconosco, e di queste giovanotti. Al seguito dunque di Daria Bignardi e di giovanotti ne arrivano 400 e altri 100. No, ora il twist. Ecco, 400 e altri 100, ed ecco dunque Ligabue, Gianna Nannini, Umberto Veronesi, Carla Fracci, Lapo, Mara Venier, Orietta Berti, ancora non è arrivato Johnny Riotto, e però tutto il meglio di Uomini Chic, Femmine Pittate fa il Birignao elevato a Costituzione. Oh. Signori miei, l'artista che monta la guardia al bidone della giusta causa fa una pietosa mostra di sé. Non c'è più un commissario di pubblica sicurezza da togliere di mezzo con le firme. I firmaioli oggi si adattano al flash mob. Il fatto è, signori miei, il fatto è che i comunisti sono diventati radical e si adoperano nel bovarismo. E infatti Matteo Renzi, come Madame Bovary, si alza, si mette in piedi e come se stesse srotolando un bacetto perugina dice: non ci devono spaventare quelli che si amano. Ora dico io, se invece di essere moralisti gli artisti fossero tali, ossia sovversivi, eversivi, insomma ribelli, dovrebbero smutandare l'ipocrisia messa in scena da questo premier così Madame Bovary. Oppure, per dirla con Diego Davide, che ha scritto un magnifico libro che abbiamo già segnalato, che è il De Gallera, fuggirsene da questi qui che la Gallera, appunto, la fanno calare. Gallera, c'è scena a Gallera, quando può cavare non si può stare. Gallera, sa buffa a Gallera, si ven a chiovere o a schizza chi ha. E si tiene 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti, vi presenta Mix 24. Una ragazza di 12 anni si è gettata stamani dal secondo piano della sua casa a Pordenone. È stato a scuola da tre bulli, colpito con violenza durante l'orario di lezione, con calci, pugni, birilli di legno e oggetti di plastica, fino a perdere conoscenza. Terribile vicenda del suicidio di una 14enne di Novara, lanciatasi dal balcone della casa paterna. Alla base del gesto ci potrebbero essere le vessazioni subite attraverso i social network. Un volo di 11 piani per mettere fine alla sua vita perché era gay e non sopportava l'omofobia. Il bullismo, notizie sempre più inquietanti, casi sempre più drammatici, suicidi spesso inspiegabili. Una recente indagine nelle scuole secondarie riporta che uno studente su due subisce episodi di violenza verbale, psicologica e fisica. La vittima isolata e senza difesa sviluppa un forte autolesionismo che può portare in casi estremi al suicidio. E noi, per capire, vogliamo andare oltre la cronaca. Lo facciamo con due storie tratte da un'inchiesta sensibile e commossa di Nenia Grignaffini e Francesco Conversano. Bullismo, chi mi ridarà quegli anni? Storie, confessioni e segreti laceranti. Qui a Mix 24, il giallo della storia. Dopo il giornale radio. Tanto Mario... Mario, che sei triste oggi? No. Pietro da Como invece ti tira sul morale e dice: per fortuna che c'è Mario a ricordarci le cose serie. Vedi che non c'è. Passano inosservate non frega le notizie a nessuno. Beh, a Pietro da Como gli frega ma molto. A Pietro sì, ma vabbè, è uno. Lasciamo stare. Gutta cavat lapidem. allora, lapidem. Canzoniere. Ogni giorno e ogni ora sono preziosi, eppure mi lascio vivere nella noia. Ogni giorno sarebbe un deserto, se al mio risveglio non sapessi che quel giorno potrò vedervi sia pure per un attimo. Se soltanto conosceste le fiamme che bruciano in me e che io tento di spegnere con la ragione. Ma è inutile, non riesco più a lottare con i miei sentimenti. Sono completamente alla vostra mercé. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms. Maria, anche per te Pietrangelo ce n'è una. Meno male che a Radio 24 c'è sempre uno spicchio di poesia con Pietrangelo. Ah, grazie. Scusa, posso dire un'altra cosa sulla legge del conflitto di interessi? No, aspetta, volevi dire una cosa? No, l'aiutino. Dagli l'aiutino. L'aiutino per il canzoniere. Mi fate la cortesia, non indovinate, così lo ascoltiamo sempre. Ah, va bene, ok. No, cioè, la cosa incredibile è che è fatta, di fatto, per far fare carriera solo a chi ha sempre vissuto di politica, perché un imprenditore, una persona che lavora in un'amministrazione pubblica e così via, non riuscirà mai di fatto a candidarsi e ad avere un futuro anche dopo la politica con questa legge qua. Quindi vinceranno i politici di professione oppure i ricchi che possono, comunque hanno patrimoni, possono smettere di lavorare e dedicarsi a fare sta roba. È se per voi questa è civile. E Bill Gates che fa con l'FBI? Questa è bella, sentiamo la musica. Here I go out to see again the sunshine. Katie Melua, questa è bravissima, c'è una voce angelica, senti. And dreams hang in the air. E allora è Wonderful Life, in realtà non c'è nessuna tristezza in me stamattina, ma solo molto realismo. Oppure, se vuoi, alla Churchill, un pessimista e un ottimista ben informato. Insomma, Bill Gates si schiera con l'FBI contro Apple. Questa è la notizia, secondo me, molto interessante sul fronte di quello che succede tra la Silicon Valley, diciamo così, quel mondo che poi è il mondo dei titani, di quelli che oggi governano in qualche maniera la crescita economica, e la legge americana. Il fondatore di Microsoft, in uno scoop del Financial Times, ha detto che Apple deve collaborare con la giustizia americana. Vedevo adesso c'è un'altra cosa molto interessante, c'è un sondaggio di Pew Research, il 51% degli americani sta con l'FBI e non con Apple. Lì tutta la cosa si basa sulla crittografia e sull'accesso ai dati. Il backdoor è quello, cioè avere la porta d'accesso per andare a vedere che cosa c'è. Vabbè. La storia di Alan Turing è importante che gli americani almeno ancora resistono. Beh, su questo sì. Per chi si vuol divertire, leggete la storia di Alan Turing, è molto interessante, il padre dell'informatica, del computer. Che durante la guerra decrittò i dati di Enigma. Per chiudere, Gloria Guerrera cosa ci presenta oggi? Oggi ascoltiamo una canzone per chi sta smantellando un amore e torna in attesa di una nuova illusione d'agosto. Che bravo. Palazzi e strade come scenografie di uno spettacolo che è andato male, coi ballerini che tolgono il trucco per cominciare a ritornare a sognare. Luna di città d'agosto, raccontami un'altra bugia, fammi riscaldare davanti al fuoco caldo della malinconia. Vai, dille che sto bene, di non pensare a me, lasciar perdere. Vai, dille che sto bene, di non pensare a me, di lasciar perdere.